tra le tante possibilità di analisi del fenomeno della sono pochissime slides, sì, certo. Tra i tanti temi che si potrebbero toccare, analizzare per quanto riguarda il processo della turistificazione. E già abbiamo nel 2017 c'è stato un ciclo di incontri sul turismo presso lo spazio di Chiostro. E tra un po' sarà pubblicato un ebook con il risultato dei lavori e delle ricerche svolte lo scorso anno, nel fine del 2017. Allora, per non ripeterci, abbiamo cercato di capire, di porci la domanda, un po' quello che diceva Ilara. Di fronte, ogni tanto si sente dire, è stato venduto un palazzo, è stata venduta la manifattura tabacchi, il palazzo opportunario ormai ha preso il volo, eccetera. Ma cosa sta succedendo in città? Chi comanda la città? Chi si sta appropriando dei nostri beni comuni, in sostanza? Chi si sta appropriando del nostro patrimonio collettivo? Perché noi siamo sedotti e abbandonati, cioè accadrà questo. E allora, con un po' di pazienza si può cominciare a vedere, e abbiamo tracciato una prima mappa, ma davvero è un lavoro ancora in corso, con l'individuazione delle multinazionali, delle grandi holding, dei grandi gruppi che stanno acquisendo e stanno sottraendo al patrimonio collettivo, alla disponibilità collettiva, intere parti di città. E in questo modo poi, tra l'altro, la città si sta anche trasformando, ma non ce ne accorgiamo, perché sottraendo una parte per volta noi ci ritroviamo un organismo urbano che ormai non sa più di città, ma di tanti parti separate tra di loro, messe a valore, messe a profitto per dei pochi privilegiati, cioè per dei grandi gruppi internazionali, e a disposizione non più della collettività, ma a disposizione di pochi gruppi privilegiati, perché come al solito poi la destinazione d'uso di questi immobili è hotel di lusso, luxury, lifestyle, cioè sono delle cose c'è sempre una piscina con un centro benessere, massaggi e così via, cioè sono delle destinazioni estremamente esclusive, per cui quando l'amministrazione comunale ci dice che gli immobili sono stati restituiti alla città, è un falso questo. Gli immobili sono stati sottratti alla città. Forse gli abitanti diventano degli spettatori, diventano delle comparse che servono necessarie per recuperare quell'autenticità della città che ormai è saltata completamente. Quindi gli abitanti ridotti a comparse per il jet internazionale. Ecco, in questa slide vedete ci sono delle marchi di alcune delle grandi holding che si sono appropriate della città. Vedete The Student Hotel, è ormai famosa, ha acquisito il Palazzo del Sonno, cioè c'è un nuovo mercato immobiliare fondato sugli studentati, perché c'è una presenza di studenti piuttosto elevato, quindi c'è un mercato garantito, per cui gli investimenti immobiliari si stanno indirizzando in questo senso. Abbiamo questo qui, il Palazzo del Sole, che è diventato, come lo sappiamo tutti, ma anche uno studentato. Poi lo studentato è un pretesto, perché la metà delle cosiddette camere a disposizione sono per studenti a prezzi di fondi, per cui sono piuttosto esclusive le cose. L'altra metà si tratta di suite, cioè si tratta di strutture turistico-ricettive di grande lussuose, quindi con la possibilità di ricavare dei profitti piuttosto elevati. Tra l'altro la stessa società ha acquistato l'area di l'ex Fiat di Viale del Fiore ed è anche coinvolta nello studentato che sarà creato all'interno della manifattura tabacchi. Quindi vedete che diventa una appropriazione tentacolare della città. c'è la fondazione Zeffirelli, che qui è stato regalato l'ex tribunale di piazza San Firenze, tanto per dirne una. Il presidente onorario della fondazione Zeffirelli, già in letta, che conosciamo tutti quanti, che ha dimezzato quando era al governo con Berlusconi gli investimenti nella cultura durante la metà degli anni 2000. Quindi sono personaggi piuttosto pericolosi, piuttosto con un loro potere molto forte. Toscana Aeroporti, sappiamo che ha acquistato l'area di Castello per lo scambio con la realizzazione del nuovo aeroporto intercontinentale. Uno dei soggetti, secondo me, più presenti è la Cassa Depositi e Prestiti, che è del Ministero dell'Economia e Finanza, e uno degli agenti, una delle società italiane che è all'opera per svuotare i beni comuni delle amministrazioni comunali. Lo sappiamo, le amministrazioni comunali si affidano alla Cassa Depositi e Prestiti per recuperare un po' di reddito, per fare cassa, come si dice, per rimpinguare i bilanci sgangherati di queste amministrazioni, in particolare dall'amministrazione di Firenze, e poi a sua volta la Cassa Depositi e Prestiti gira mediante delle aste che poi vanno al ribasso, quindi svende gli immobili che sono il nostro patrimonio. Ora io non vorrei dilungarmi più di tanto, perché stiamo preparando delle schede che saranno pubblicate sui nostri siti, quindi saranno accessibili, eccetera. Probabilmente riusciremo a fare anche una pubblicazione. Però, tanto per capire i soggetti che sono presenti, lo Student Hotel sembra avere spacciato come una società olandese dove è guidata da uno scozzese intraprendente, Charlie McGregor, eccetera. In realtà non è tutto questo, perché dietro lo Student Hotel ci sono tre società ben precise che sono dei colossi immobiliari finanziari che hanno investimenti in tutto il pianeta. C'è per esempio un fondo pensione. Sì. Cioè il fondo pensione è un gruppo belga, ed è il secondo fondo pensione, l'APG. Il secondo fondo pensione è d'Europa, il sesto del mondo. C'è un gruppo che è la questo qui, il Carlyle Group, che ha una possibilità di investimenti estremamente alta. Qui insomma c'è da leggere un po' più. Ecco, il Carlyle Group ha avuto nel consiglio di amministrazione George Bush Senior e addirittura la famiglia Bin Laden, quindi siamo a dei livelli incredibili. E si è famoso per avere degli investimenti di tipo militare. Era coinvolto nella guerra dell'Iraq e dell'Afghanistan. Nel 2001 sedeva nel consiglio di amministrazione Letizia Moratti, che era il sindaco di Milano. In quel periodo il Carlyle Group ha beneficiato delle cartolarizzazioni, non so se vi ricordate, cioè la svendita del patrimonio immobiliare pubblico fatta dal governo Berlusconi Tremonti. Quindi sono dei gruppi che hanno un potenziale economico finanziario enorme. La gestione del patrimoniale è di 212 miliardi, che equivale al PIL di alcuni stati, tipo la Finlandia, tipo la Svezia, del nord Europa. Quindi sono dei potentati economici straordinari. Casomai andiamo avanti. Sì, ecco, nella Cassa Depositi e Prestiti, per esempio, c'è. Ha venduto sia il. Ha facilitato la vendita della casa del Porto San Giorgio. Detiene, Sì, il teatro comunale che è una compartecipazione con un gruppo americano che è l'AIES. Poi sta curando la svendita dell'ex ospedale militare sanitario. Addirittura lì c'è da fare una precisazione. Il comune non ha alcun tipo di previsione pianificatoria, di previsione urbanistica nei confronti dell'ex ospedale militare di via San Carlo. Se vedete, la scheda urbanistica parla soltanto di un generico mix funzionale. Allora ha invitato il privato, cioè Cassa Depositi e Prestiti, a bandire un concorso per stabilire la destinazione d'uso degli immobili. Il concorso vinto da un gruppo che vede al proprio interno dei personaggi, cioè Fabrizio Rossi Prodi, la Silvia Viviani, eccetera, che sono molto conosciuti qui a Firenze e spesso sono protagonisti delle vicende urbanistiche della città. In realtà il concorso ha definito che cosa? Un mix di destinazioni d'uso che vede il solito albergo extra lusso, il solito centro benessere, quindi le solite destinazioni che nulla hanno a che vedere con i bisogni della collettività, con i bisogni della città. Non solo, ma al termine del progetto mi è detto che si tratta di funzioni che sono state scelte da questo gruppo di progettisti, ma comunque sono funzioni flessibili. Cosa vuol dire flessibili? Che si potranno adattare alle richieste dell'investitore, richieste che ovviamente non saranno mai nell'interesse della città, della collettività, degli abitanti, eccetera, ma saranno nell'interesse della massimizzazione degli investimenti fatti su quel tipo di area. Cioè abbiamo quindi di fronte, da un lato, un'amministrazione comunale che assiste soltanto, che facilita la svendita del patrimonio, non decide nulla sulle sorti degli immobili, non ha un'idea di città complessiva, ma si struttura come una mediazione immobiliare nei confronti di queste grandi società che possono decidere il destino della sede di immobili liberamente, ma a questo punto della città, che è sudata della sua memoria storica, della sua specificità. Un'ultima considerazione, cioè man mano che si va avanti con l'analisi di questi gruppi, cioè si percepisce concretamente cosa vuol dire interventi di tipo neocoloniale, di tipo estrattivo. Cioè esiste una grande disponibilità a livello planetario di liquidità, di profitti, di soldi, di finanziamenti, che è straordinaria. Si strutturano attraverso fondi immobiliari, attraverso i fondi pensione, che circolano per tutto il pianeta alla ricerca dell'occasione migliore per poter valorizzare il proprio investimento, quindi la produzione di denaro a mezzo di denaro. Firenze si sta qualificando come una delle piazze più appetibili da questo punto di vista, cioè dal punto di vista della redditività dell'investimento, dell'espropriazione dei beni collettivi e poi soprattutto lo spessore storico della città, lo dico esplicitamente anche agli investitori, poi finisco. Lo spessore storico della città costituisce un fattore anticiclico, viene detto, ossia rende costante la possibilità della redditività degli investimenti al di là delle oscillazioni del mercato immobiliare. Io penso che dovremmo dircele queste cose qui, dovremmo raccontarcele e dovremmo denunciare questa situazione di sfruttamento di tipo neocoloniale nei confronti della nostra città.